A bordo campo di Dario Ricci. La Juventus si aggiudica allo stadio Heysel di Bruxelles la Coppa dei Campioni, battendo per 1-0 i detentori del Liverpool. Il gol è stato segnato da Michel Platini dopo 11 minuti e 30 secondi. Allora non c'era ancora la musica della Champions League. Quella che raccontiamo oggi è una storia di un altro calcio, di un'altra Coppa Campioni. 29 maggio 1985, Bruxelles, stadio Heysel. Doveva essere la partita del secolo, quella tra Juventus e Liverpool, la più grande finale di Coppa Campioni mai giocata. Ebbene, diventò la strage e la tragedia del secolo per quanto avvenuto su un campo di calcio. Benvenuti oggi a Bordo Campo. Oggi dedichiamo questa puntata proprio al ricordo di quella tragedia dei 25 anni fa. Benvenuto Francesco Caremani. Grazie. Francesco Caremani è l'autore di Heysel, Le verità di una strage annunciata, libro direi fondamentale per quanto riguarda la ricostruzione di quella vicenda, pubblicato da Bradipo Libri e ora in via di nuova pubblicazione. Francesco, l'abbiamo detto, la finale del secolo doveva essere Juventus-Liverpool. Inquadriamolo dal punto di vista calcistico, perché c'era questa grandissima attesa intorno a questa partita, non solo perché era la Coppa Campioni chiaramente, ma proprio perché quelle erano forse le due squadre più forti al mondo in quel momento. Sicuramente sì, sicuramente Liverpool era forte delle tante Coppe dei Campioni vinte, la Juventus era forte come squadra, era forte dei tanti scudetti vinti, ma non aveva mai vinto la Coppa dei Campioni. È vero anche che il Liverpool aveva vinto l'anno prima all'Olimpico contro la Roma. Per la Juventus era già la terza finale europea consecutiva, aveva perso la Coppa Campioni Atene con l'Amburgo, aveva vinto a Basilea la Coppa delle Coppe con il Porto e oltretutto se avesse vinto la Coppa dei Campioni contro il Liverpool sarebbe stata la prima squadra in assoluto a vincere tutte e tre le competizioni europee, oltretutto sempre con lo stesso allenatore che era Giovanni Frapattoni. Da un lato c'erano campioni come Dalglish, Souness, Jan Rush, che poi sarebbe diventato proprio juventino, il portiere Grobbelaar, quello che fece impazzire i rigoristi romani, dall'altra parte Boniek, Platini, Paolo Rossi, Briaschi, Tacconi che ritrovava il posto in porta dopo una stagione a dir poco tribolata. Si arrivava a quella finale in che clima emotivo, Francesco? Beh, un forte clima emotivo. Oltretutto la Juventus, avendo vinto la Coppa delle Coppe, aveva già incontrato il Liverpool. All'epoca la Supercoppa europea, appunto lo scontro fra la vincitrice della Coppa dei Campioni e quella della Coppa delle Coppe, si giocava con partite di andata e ritorno. Però problemi di calendario e anche il clima non aiutarono e allora si giocò alla fine una partita secca a Torino, addirittura con il campo spalato dalla neve fresca e una doppietta di Boniek che regalò la Supercoppa alla Juventus. Quell'incontro, quel precedente aveva creato maggiore aspettativa, soprattutto nei tifosi della Juventus, perché sapevano che il Liverpool era una squadra molto forte. Il Liverpool che non gli era andata tanto giù questa partita unica, comunque, e poi giocata a Torino. Quindi, insomma, però obtorto collo per motivi di calendario accettarono. Quindi, da un punto di vista però prettamente sportivo, sicuramente era una finale molto attesa. Vero è che in una finale così attesa fu scelto un palcoscenico imbarazzante. Sì, era lo stadio Heysel di Bruxelles, stadio fatiscente costruito negli anni 60, ma di fatto immediatamente percepito come non adatto all'evento, no? Ricordo le parole che tu stesso citi nel tuo testo del direttore di Tutto Sport, Dardanello, che nel suo editoriale di quel 29 maggio già diceva: peccato che per una sfida di questo tipo si sia scelto proprio questo stadio che non ci sembra proprio all'altezza, e anche perché si veniva dal ricordo di quella che era stata la finale di Roma, no? C'era grande preoccupazione per la calata dei tifosi inglesi a Roma, all'Olimpico. Allora non ci furono sostanzialmente problemi, 5.000 poliziotti di fatto blindarono la partita e tutto si svolse regolarmente. Come avvenne invece l'avvicinamento alla sfida dell'Heysel? Beh, l'avvicinamento alla sfida dell'Heysel avvenne in una maniera incredibilmente cialtrona, mi permetto di dirlo. Da una parte i biglietti della curva Z, perché poi credo che sia diventato chiaro a tutti che quello doveva essere un settore neutrale e non si potevano mettere a fianco tifosi della Juve, oltretutto a fianco proprio degli hooligans inglesi, quindi come dire dalla parte più ultra del tifo del Liverpool. Dall'altra perché lo stadio era in condizioni imbarazzanti, cioè c'erano stati anche dei sopralluoghi, ma non c'erano reti divisorie adeguate, si poteva accedere alla curva Z e alla parte lì vicina semplicemente saltando su un terrapieno che stava proprio lì dietro. Era una specie di stadio, si può dire, ma in ristrutturazione, quindi con dei cantieri fuori, cantieri dove gli hooligans inglesi poi si sono armati con spranghe e altre masserizie. Sono le 19:15 quando la tragedia, per alcuni aspetti, per molti aspetti, come ci sta ricordando Francesco Caremani, e per molti altri, perché qualcuno ancora in questi giorni si azzarda a dire che la vigilia di quella partita era stata tranquilla e che non c'erano stati segni premonitori. Ebbene, gli hooligans sbarcati dall'Inghilterra avevano nei giorni precedenti già distrutto praticamente Bruges e avevano già devastato il centro di Bruxelles, dove campeggiavano ubriachi. Se non sono segni premonitori questi, ma sono le 19:15 quando quel settore Z diventa l'inferno, no Francesco? Sì, le ricostruzioni sono abbastanza precise. I tifosi inglesi che prima sembravano assopiti dall'alcol, poi invece probabilmente portando altro alcol dentro senza essere controllati, perché anche l'assurdo, mentre i tifosi, cioè, o meglio le famiglie italiane che entravano nel settore Z, colpa anche di una rivendita farlocca di biglietti, erano controllati uno a uno e passavano da una piccola porta di appena un metro di larghezza e quindi con molta lentezza, gli hooligans inglesi erano entrati senza nessun controllo, quindi armati, pieni di birra. A quel punto da assopiti si scatenano nuovamente e si scatenano contro queste famiglie italiane, contro questi supporter della Juventus, e la loro, diciamo così, timore, giustamente, giustificato, la loro paura e magari il loro arretrare addirittura li scatena ancora di più, fino a che prima cominciano a tirare lattine piene, razzi, tutto quello che hanno a disposizione e che gli passava per le mani, e poi riescono a buttare giù una rete assolutamente ridicola, una rete da pollaio, difesa da 6 poliziotti, di cui se non sbaglio uno è una donna. Loro alla fine scappano, i poliziotti addirittura, e gli inglesi davanti a sé non hanno più niente e possono attaccare, aggredire, colpire gli italiani, perché vengono colpiti, vengono feriti, e gli italiani chiaramente scappano verso il muro che delimita la curva Z, perché sono persone che erano andate allo stadio per godersi la finale di Coppa dei Campioni e basta. Bastano 5 minuti per far sì che la tragedia si compia. La ressa, i corpi che si ammassano, il muro di contenimento di questo stadio fatiscente che crolla, e i più fortunati sono quelli che riescono a scappare proprio verso il campo di gioco e a sfuggire poi paradossalmente, paradosso del dolore, alle manganellate dei poliziotti belgi che, completamente fuori controllo, avevano come unico ordine, per quanto riguarda la sicurezza, quello di impedire l'invasione di campo. E beh, a quel punto le manganellate le prendono quei tifosi che già avevano subito la carica tragica da parte degli hooligans inglesi. Il bilancio è di 39 morti, 38 allo stadio, 1 poi per le ferite riportate. Chi vi parla ricorda questa scena, aver acceso il televisore per vedere una finale di Coppa di Campioni e vedersi d'improvviso apparire di fronte questa scena ed un cavallo, un soldato a cavallo, che per un ragazzo di 12 anni era una cosa incomprensibile. Doveva esserci una partita di calcio a quel punto nel video, e invece quella partita poi si giocherà lo stesso, no Francesco? Sì, la partita si gioca. Dopo 25 anni possiamo dire che è stato opportuno, non dico giusto, ma opportuno giocarla, semplicemente per cercare di mantenere il più possibile l'ordine ed evitare altri scontri, altri morti. Perché proprio io ho rivisto proprio in questi ultimi giorni delle immagini, a un certo punto gli ultra della Juve scappano proprio dalla curva opposta a quella Z e cercano di andare contro quelli del Liverpool, perché hanno saputo qualcosa. Quindi è stato opportuno giocare la partita, rinforzare il servizio d'ordine per evitare altre morti e altre vittime. Come dice Otello anche nel libro che ho scritto, è chiaro che in quel momento, nel momento in cui c'era Roberto che era morto e lui era lì con lui, vedere che iniziavano la partita è stato uno shock enorme, fortissimo. La partita opportunamente è stata giocata. Poi ognuno in coscienza stabilisce se quella partita, come dire, può avere o meno un senso. Per me, e lo dico da ragazzo, ero tifoso della Juventus. Oggi dico una cosa che magari può essere banale, ma oggi faccio il giornalista, non faccio il tifoso, quindi per me quella partita, insomma, non può avere senso. Finisce 1-0, decide un gol su calcio di rigore di Platini, rigore che di fatto poi già l'amo viola allora, ma poi tutte le analisi successive confermano non esserci insomma un clamoroso errore dell'arbitro Deina. La Juventus vince quella coppa insanguinata, ma a questo fra poco arriviamo. Hai fatto dei nomi, Francesco, Otello, Roberto, ebbene allora ritorniamo in quel settore Z e da quel settore arriviamo poi ai giorni nostri. Sono i bastardi, potevate far qualcosa, sono tutti morti là dentro. 29 maggio 1985, sono passati 25 anni da quella notte della Isel. Doveva essere la finale del secolo, dicevamo, e prima fu la tragedia del secolo, 39 morti per una finale di Coppa Campioni. Andrea Lorentini, grazie di essere ospite di A Bordo Campo. C'era un bel grazie. Pezzo della tua famiglia in quel settore Z, vero? Sì, innanzitutto grazie per l'invito. Sì, c'è un bel pezzo della mia famiglia, come hai detto tu, in quel settore Z, perché Roberto era mio padre e Otello è mio nonno, insomma, quindi purtroppo quel pomeriggio, quella sera del 29 maggio 1985 ha segnato la mia vita ed è così, insomma, come tu hai detto. Tu avevi 3 anni, eri a casa ad Arezzo, tuo papà che tra l'altro proprio quel giorno, quel 29 maggio, aveva ricevuto una bellissima notizia, era stato assunto a tempo pieno presso l'ospedale, quindi per un medico insomma è sicuramente un successo professionale, la possibilità di dare maggiore stabilità alla propria famiglia. E poi c'era la Juve, la squadra del cuore, andava con Otello, tuo nonno, a vedere questa partita. Erano in questo settore, no? Insieme a dei loro cugini. Che cosa succede, Andrea, al momento della carica degli inglesi? Sì, tra l'altro devo dire che mio padre, chi lo conosceva sa che, insomma, che fisicamente era molto robusto, quindi in un certo senso poteva essere anche come dire, aiutato dal fisico a poter magari anche scappare dalla calca e dalla furia degli hooligans che si stava facendo incontro ai tifosi della Juventus. Però lui, come tu hai ricordato, appunto, era un medico e quindi in qualità di medico ha sentito proprio il senso del dovere di aiutare le persone che erano comunque ferite sugli spazi, stavano soffrendo. In particolare c'era un bambino che appunto era ferito sugli spalti e lui si è piegato per praticargli la respirazione bocca a bocca, e in quel mentre è stato travolto appunto dalla furia degli hooligans e purtroppo è rimasto schiacciato e ha pagato con la vita questo suo grande senso del dovere, questo suo bellissimo altruismo. Un sacrificio, quello di Roberto, che gli varrà purtroppo postuma una medaglia d'argento al valor civile, ma quello che rimane nella memoria, negli occhi, nei pensieri, è anche quello che fa Otello Lorentini, no? Otello, il papà di Roberto, cerca, e tuo nonno Andrea trova scampo fortuitamente verso il campo di gioco e cerca di attirare l'attenzione dei suoi familiari per cercare almeno di ricostituire il piccolo gruppo dei familiari, appunto, in mezzo a quel caos, a quella tragedia. Sì, mio nonno è riuscito a salvarsi e quindi si è ritrovato appunto in campo, e poi dopo, diciamo, chiaramente qualche minuto nella confusione che appunto uno può immaginare ci fosse in quegli istanti, è riuscito appunto a riunirsi, a ritrovare gli altri i due cugini di mio padre, i suoi nipoti, e poi comunque da lì a poco purtroppo hanno fatto la tragica scoperta che invece mio padre purtroppo non ce l'aveva fatta. Le barriere divisorie trasformate in lettighe di fortuna per i cadaveri e per i feriti. Le bandiere della Juventus usate non per tifare per una squadra in campo, ma per coprire i corpi senza vita. E poi le scene che arrivano dalle testimonianze, no? Le immagini che arrivano dalle testimonianze. La polizia belga frastornata da quanto accaduto e che non riesce a fornire il minimo supporto. Francesco Caremani, è una pagina forse ancora tutta da analizzare, quella di queste responsabilità. Per fortuna no, nel senso che c'è stato un processo, grazie a Otello, che ha fondato l'associazione tra i familiari delle vittime di Bruxelles, ne è stato presidente e ha combattuto per tanti anni fino alla fine, finché non ha ottenuto giustizia. Perché poi Otello non ha cercato vendetta per aver perso l'unico figlio. Otello ha cercato giustizia per sé, per Roberto, per gli altri familiari delle vittime, ma anche per tutti quelli che venivano dopo. Perché ovviamente le responsabilità a cascata, l'UEFA che sceglie uno stadio indecente, quando all'epoca non aveva alcuna responsabilità, oltretutto degli eventi che portavano il suo marchio, ma incassava circa l'80-83% dei soldi, in pratica senza colpo ferire. E poi le autorità del Belgio, dal ministro dell'Interno, che coordina ovviamente la polizia, al sindaco di Bruxelles, la federazione di calcio belga, la gendarmeria di Bruxelles, chiaramente che coordinava, che avrebbe dovuto coordinare i gendarmi, i poliziotti, la sicurezza intorno allo stadio. Infine gli hooligans, io nel libro lo scrivo chiaramente, loro sono gli assassini, ma tutti quelli che ho citato fino adesso sono i mandanti di questa strage. Giustizia non vendetta, perché alla fine poi gli hooligans non fanno, insomma, quasi niente di galera rispetto alle colpe, quegli 11, insomma, quegli 11 che vengono individuati e quindi condannati. E quando in primo grado vengono tutti assolti, è un altro shock per Otello Laurentini, e decide con il giovane allora avvocato italo-belga Daniel Vedovatto di citare, è in quel momento che lui cita e porta dentro il processo l'UEFA. Ma immaginatevi, cioè lui da solo con questo avvocato che portano l'UEFA a giudizio. Se avessero perso, credo che Otello Laurentini gli sarebbero bastate probabilmente 3 vite per ripagare l'UEFA. In rappresentanza degli altri ha presieduto a tutte le fasi del processo per 6 lunghi anni. Cioè, se si giocano le finali di Champions League oggi in stadi ad altissima sicurezza, e forse qualcuno si è scordato che tutto questo lo devono a Otello. Ecco, Andrea Lorentini, Francesco Caremani ci ha portato nelle aule di giustizia di Bruxelles, dove Otello, tuo nonno, ha cercato la giustizia per queste 39 vittime, a partire dal figlio Roberto. Ecco, qual è stato l'esito di questo processo? Ce lo ricordava Francesco, un processo dove i familiari delle vittime sfidavano l'UEFA in persona, senza mezzi, senza supporto economico. Ma alla fine di questi 6 anni, qual è il risultato? È che per certi versi Davide ha sconfitto Golia, nel senso che l'UEFA comunque è stata condannata in appello, perché questo è un passaggio importante. In primo grado l'UEFA era stata assolta e poi comunque la sentenza dell'appello, confermata ovviamente in Cassazione, ha fatto giurisprudenza, perché da quel momento l'UEFA comunque ha la responsabilità oggettiva di tutti gli eventi che organizza. Quindi chiaramente è stata una sentenza che ha fatto storia, e Francesco ha poc'anzi ricostruito in maniera appunto perfetta questo che è stato tutto l'excursus giuridico, per dire insomma che tra l'altro dopo la sentenza di primo grado, insomma, è stato soprattutto mio nonno che ha dato anche la spinta propulsiva allo stesso avvocato Vedovatto per tentare appunto di proseguire nel processo, ricorrere in appello, perché chiaramente far condannare l'UEFA in quel momento là è un'impresa quasi titanica. E invece, grazie anche alla forza di volontà di mio nonno, chiaramente poi sorretta dal pool di avvocati, siamo riusciti ad ottenere questo storico risultato. Arriva da quell'aula di Bruxelles, appunto, la sentenza che in qualche modo riscatta o non rende vano quel sacrificio di 39 vite innocenti. C'è un ultimo capitolo di questa storia, semmai questa storia si dovesse chiudere, perché la ferita è sempre e comunque aperta. Francesco Caremani, ci fu un festeggiamento, c'è ancora una coppa in una bacheca, no? Dopo quella partita giocata in quelle condizioni assurde e incredibili. Lo dico subito, ci sono alcuni familiari delle vittime che tengono a quella coppa e ci tengono perché secondo loro quella coppa serve anche alla memoria dei propri cari. È un'idea che io rispetto. Non posso rispettare quella del tifoso becero dell'ultra che vuole considerare la coppa sua a prescindere dai morti. Secondo me quella coppa andava restituita, sarebbe stato un gesto magnifico, sarebbe stato un gesto di grande rispetto. Restituita e far scrivere negli almanacchi semplicemente non assegnata. Io credo che la Juventus avrebbe perso una coppa, ma avrebbe guadagnato tantissimo a livello sportivo. Faccio un esempio, abbiamo parlato di 6 anni di processo, il libro alla fine nel 2003, diciamo così, la prima pubblicazione, quest'anno con Bradipo Libri viene ripubblicato, ma perché nasce dopo 18 anni di silenzio? Perché purtroppo il processo non viene raccontato, purtroppo la battaglia dell'associazione delle famiglie delle vittime non è stata raccontata, ma non tanto dai giornalisti belgi piuttosto che francesi o piuttosto che inglesi, no, proprio da quelli che oggi sono i colleghi italiani, cioè non l'hanno raccontata questa battaglia, hanno lasciato Otello Laurentini e l'associazione da soli, nel silenzio. E quando invece era una cosa molto importante, e a questo silenzio purtroppo hanno contribuito in tanti, in troppi, la stessa Juventus, cioè una squadra che ha perso per una partita di calcio, che già di per sé è una cosa assurda, 39, di cui 32 italiani tifosi, e che per tanti anni non ha fatto niente, non ha fatto memoria, lo trovo assolutamente incredibile. Però ci sono stati proprio dalla fine della partita, cioè dal fischio finale dell'arbitro svizzero Deina in poi, dei comportamenti assolutamente censurabili, e la cosa secondo me più grave è che questi comportamenti anche di omertà si sono protratti nel tempo per 18, 20 e forse anche 25 anni, cioè è come la storia dei giocatori della Juve che sapevano o non sapevano dei morti. Allora, in trasmissioni differenti l'ha dichiarato Paolo Rossi, c'ero presente io, c'era presente Otello Laurentini, l'ha dichiarato Stefano Tacconi in un'altra trasmissione dove io non ero, hanno dichiarato che sapevano dei morti, ma il ritornello, se uno ascolta dei giocatori della Juventus, è sapevamo di uno, due morti, no. Sapevano dei morti perché il dottore Agricola ha curato dei feriti disperati che erano finiti negli spogliatoi e gli avevano raccontato tutto per filo e per segno. Di conseguenza, da lì a tutti i comportamenti successivi, come dire, io do il mio giudizio, lo do come uomo, lo do come sportivo, lo do come giornalista, poi chiaramente ognuno in coscienza darà su queste cose il proprio giudizio. A bordo campo di oggi finisce qui, finisce con un grazie a Francesco Caremani e ad Andrea Laurentini per essere stati i nostri ospiti e aver ripercorso questa pagina, non di storia del calcio, ma della storia di tutti noi, che è ancora aperta fino ad oggi. E finisce con i ringraziamenti a Fabio Cantadori in regia e con una richiesta. Che quella coppa esca finalmente da quella bacheca dove è conservata, che la Juventus la restituisca, che in qualche modo scelga questa strada per rendere onore a quelle vittime e che in cambio si faccia dare una lapide per ricordare questi 39 innocenti scomparsi quella sera del 29 maggio 1985 all'Heysel di Bruxelles.